Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, ho una buonissima notizia per noi. La gentilezza non solo migliora le nostre relazioni, ma giova anche alla nostra salute, al punto che allunga la vita. Fior fiori di studi lo dimostrano, i risultati sono stati raccolti in un libro appena uscito che si intitola per l'appunto La biologia della gentilezza. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere Daniel Lumera, che è, come sapete, è esperto nelle scienze del benessere e della qualità della vita, è un riferimento internazionale nel campo della meditazione, che è autore di questo libro insieme ad Immaculata De Vivo, che è un'epidemiologa di Harvard, una delle esponenti di spicco nello studio dei telomeri, che sono, possiamo dire, gli apici dei nostri cromosomi, che oltre a essere un po' considerati marcatori dell'invecchiamento, fungono da orologio biologico del nostro organismo. Intanto buongiorno e grazie a Daniel Lumera, benvenuto e bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sembra quasi una provocazione la biologia della gentilezza, ma esiste un effetto biologico della gentilezza? Può la biologia essere gentile? Allora, la gentilezza, così come gratitudine, il perdono e l'ottimismo, sono vere e proprie medicine naturali. Quindi c'è una ragione non solo sociale, etica e morale, ma anche e spirituale, anche nella gentilezza, ma proprio biologica, una ragione evolutiva. La professoressa, sì, Immaculata De Vivo usa un'espressione che a me piace tantissimo, che è be kind with your DNA, quindi sii gentile col tuo DNA. Ed è un'espressione... È molto provocatoria anche, perché certo, sottolinea il fatto che fino a qualche anno fa noi pensavamo che nel nostro DNA, nella sequenza cromosomica, ci fosse tutto il nostro destino, quindi quando ci saremo ammalati, quando saremo morti. Invece oggi la scienza sviluppa, ci mette in mano un più profondo livello di responsabilità, perché ha comunque dimostrato che tutte le predisposizioni genetiche delle più importanti malattie croniche che noi conosciamo, quindi cancro, diabete, ma anche disturbi respiratori così attuali in questo periodo, non sono mai queste predisposizioni genetiche sufficienti di per sé a determinare la malattia, la comparsa della malattia, ma che ci sono tutta una serie di fattori epigenetici, come i fattori ambientali, ma anche le scelte di vita, le relazioni, il mondo interiore fatto di emozioni, di pensieri. E quindi questi studi straordinari sui telomeri, questi biomarcatori dell'invecchiamento, queste sentinelle della longevità, che queste sono strutture di DNA che sono poste all'estremità dei cromosomi, sono degli indicatori della nostra età biologica, che non sempre corrisponde invece alla nostra età cronologica. Per esempio, gli studi più belli che io ho visto sulla meditazione dimostrano che chi medita regolarmente tutti i giorni per almeno 5 anni ha l'età biologica 10 anni più giovane, cioè come se fosse 10 anni più giovane rispetto ai coetanei che non meditano. E la cosa bella di questi studi è che abbiamo compreso che non solo mangiare sano, stare nella natura, meditare e fare del movimento fisico ci aiuta a proteggere questi telomeri, ma che le persone che praticano gentilezza, che sanno essere ottimiste, che sanno ringraziare ogni giorno, che sanno perdonare, hanno i telomeri più lunghi. Quindi la biologia, sì, è una biologia gentile. Che effetto ha la gentilezza sulla biologia del nostro corpo? Tutti i valori positivi, non solo la gentilezza, ma anche l'ottimismo o la felicità, contrastano i processi infiammatori, riducono lo stress ossidativo, che sono proprio i fattori che deteriorano i telomeri. E sono d'altra parte si dice, no? Da sempre, cuor contento il ciel l'aiuta. È proprio vero. Diciamo che chi è gentile, e la gentilezza può essere coltivata, però contrasta la comparsa di malattie, anche malattie come demenza, come Alzheimer. Quindi questa biologia dei valori, se vogliamo definirla in questo modo, ribalta un'interpretazione molto errata, molto sbagliata di Darwin, del paradigma darwiniano, che noi abbiamo molte persone, popolarmente viene interpretato con sopravvive il più adatto è il più forte. E per forte, sì, lo vediamo oggi nella società con quello che sta succedendo, purtroppo è un riflesso di queste false credenze. Il più forte è colui che è inteso come chi riesce a imporsi fisicamente, psicologicamente e anche economicamente sull'altro. L'importante è imporsi, essere più forte, dimostrare di essere più forte e quindi più adatto alla sopravvivenza. Questa interpretazione ha sicuramente influenzato la nascita di una società competitiva che giustifica anche l'uso della violenza. Invece, in questo libro, nella biologia della gentilezza, numeri alla mano, scienza a fianco, noi abbiamo, la scienza ha dimostrato che il più adatto al cambiamento in questa terra è il più gentile. E io credo che in questo periodo post-Covid soprattutto, dove in questi giorni stiamo guardando un'ondata di rabbia incredibile che si sta manifestando, ecco, proprio questo tipo di informazione sia importantissima non solo per la salute, ma anche proprio per una prospettiva evolutiva di sopravvivenza. Questo scritto deriva da tante progetti sociali che abbiamo portato nelle carceri, negli ospedali, nell'accompagnamento alla morte, nelle scuole. Io personalmente ho visto enormi trasformazioni nelle persone, nelle vite, quando la gentilezza è autentica e viene sostituita alla punizione. Io credo che sia una chiave di evoluzione fondamentale. La scienza dice che è veramente così e credo che queste saranno le medicine naturali del futuro. Ma se è vero che essere gentili fa così bene alla nostra salute, alla longevità, oltre che naturalmente alle nostre relazioni, perché quando incontriamo una persona gentile tutto va meglio, ma che cosa intendiamo esattamente per gentilezza? Qua dobbiamo andare alla radice della parola, che è molto bella, che deriva dal latino gentilis, che a sua volta deriva da gens. Quando io sento la parola gentilezza penso subito al garbato, al garbo, all'amabilità, alla dolcezza anche. La gens era un gruppo familiare allargato, non solo di appartenenza biologica, stiamo parlando dell'antica Roma, era una famiglia che aveva allargata chiaramente, i cui membri avevano dei doveri reciproci di assistenza, di cura, di difesa, gentilem, cioè appartenente alla gens. Era una condizione sociale che prevedeva delle qualità morali, delle attitudini, che non è semplicemente cortesia verso l'altro, ma è proprio cura, è un vero e proprio sentimento interiore, quello che manca a molte persone oggi, io credo. La gentilezza va oltre il significato comune di buona educazione, di buone maniere. Dal mio punto di vista, oltre che un valore biologico, che serve alla salute, è anche un valore sociale di fondamentale importanza. Perché dico questo? Perché la gentilezza crea un senso di appartenenza, un riconoscere l'essere umano, l'altro da te, che non ha bisogno, questo riconoscimento e questa appartenenza, non ha bisogno di una comunicazione verbale violenta. Appartenere a qualche gruppo non vuol dire creare competizione con gli altri, non vuol dire farsi necessariamente dei nemici, non vuol dire far leva su istinti primari o su ferite emotive e paure. Ecco, questo appartenere alla gente è un processo inclusivo che ha degli elementi caratteristici evolutivi anche di ordine biologico. Questa cortesia, questa amorevolezza, questo spirito di appartenenza e di servizio è qualcosa che si fonda su ragioni evolutive e biologiche di sopravvivenza dell'essere umano in questo pianeta. Quindi viva la gentilezza! Viva la gentilezza, ma nasciamo gentili. Insomma, la gentilezza è scritta nel nostro DNA o diventiamo gentili attraverso l'educazione, la pratica, il confronto, le relazioni, l'esperienza? È qualcosa che possiamo imparare, la gentilezza, che possiamo allenare ogni giorno? Può essere un progetto? Ma c'è una buona notizia, e cioè che la gentilezza, come gli altri valori di cui parliamo nel libro, quindi anche l'ottimismo per esempio, sono determinati. L'ottimismo ad esempio è determinato solo geneticamente, è un tratto determinato geneticamente solo per il 25%, il resto è come un muscolo. Questi valori sono dei muscoli che noi possiamo allenare, sono frutto di un lavoro interiore, delle relazioni. A me piace pensare che ogni giorno possiamo andare in una palestra della vita per allenare questi valori e diventare molto muscolosi. Però mi piace. Nel libro c'è bisogno anche di praticità. Nel libro noi presentiamo un approccio assolutamente pragmatico attraverso sei scelte piccole, quotidiane, però sono semplici sei azioni che hanno un impatto sul benessere, sulla qualità della vita che non solo influenza la lunghezza dei telomeri e la longevità, ma ci permette di vivere sani, in salute, e sono piccoli accorgimenti: una sana alimentazione, un corretto movimento fisico, la pratica di pochi minuti al giorno di meditazione per rigenerarci, delle relazioni sane e felici, perché sono dei nutrienti le relazioni, la musica corretta, perché la musica è un componente fondamentale della vita. Quindi però bisogna comprendere quali sono gli studi scientifici fatti sulla musica, quando e come ascoltarla, e infine la relazione con la natura per una vita proprio longeva. Questo è un metodo integrato di facile applicazione, e il filo conduttore che unisce tutte queste sei scelte è proprio la gentilezza verso se stessi e verso gli altri. Quindi non solo un valore sociale, ma anche un, come dicevo prima, un imperativo biologico ed evolutivo di fondamentale importanza. Abbiamo pensato, abbiamo chiesto a Daniel Lumera di organizzarci una sorta di mini corso per allenare la gentilezza. A partire da oggi trovate sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute un esercizio al giorno, una riflessione, una meditazione, una frase, un consiglio, un suggerimento. Per tutta questa settimana, guidati da Daniel Lumera, che ci aiuterà ad andare in palestra per allenare la nostra gentilezza. Ringrazio Daniel Lumera, ricordo il titolo del libro, La biologia della gentilezza, edito da Mondadori. Grazie per essere stato con noi. Noi siamo pronti per iscriverci al suo corso sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Grazie. Buona gentilezza. E ringrazio Peter Bescapé in regia alla parte tecnica, Lorenzo Nes in assistenza e Laura Vanossi in redazione. Noi ci sentiamo come sempre a mezzogiorno, anzi dopo il GR delle 12, per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata da Nicoletta.